È un dibattito surreale, un dibattito al contrario. Veniamo da un anno in cui sono ulteriormente aumentati gli incidenti, i feriti e soprattutto i morti tra gli utenti più vulnerabili della strada, e le campagne mediatiche e politiche in atto, alimentate anche dalla giunta, riguardano slogan come i pedoni distratti e ciclisti selvaggi. È un capovolgimento della realtà e delle responsabilità a guardare invece i dati oggettivi, i numeri statistici che ci dicono tutt'altro. Tu invece hai chiesto misure che vanno assolutamente in controtendenza a questa campagna, più severità per gli utenti forti della strada. Io sono molto chiaro e senza ambiguità, credo che le regole del codice della strada debbano essere rispettate da tutti, a maggior ragione da pedoni e ciclisti, a tutela della loro stessa incolumità. Detto questo, una politica seria e responsabile che abbia davvero l'obiettivo di salvare vite umane deve tenere conto di quei dati oggettivi che dicono che i comportamenti più pericolosi sono l'eccesso di velocità, la guida distratta con lo smartphone e il mancato rispetto delle precedenze, violazioni tipiche dei conducenti di veicoli a motore e di cui i pedoni e i ciclisti sono vittime e non responsabili, certo. Ma anche ieri nel dibattito in consiglio comunale all'interno della maggioranza ci sono state, come dire, espresse sensibilità diverse, diciamo, rispetto alla tua, diciamola così, che la maggioranza a Palazzo da Curzio qual è il problema? Non ha una linea comune, non ha una cultura politica in questo senso? Ma io credo che non siano in realtà sensibilità e posizioni incompatibili, sicuramente sono diverse, insieme possono comporre un'idea complessiva di sicurezza stradale. Io quello che sottolineo è la priorità di intervento rispetto a questi dati. Altri colleghi dicono e mettono all'ordine del giorno la necessità di campagne di sensibilizzazione contro i pedoni che si distraggono guardando il telefonino. Io credo che per salvare vite umane vada bene tutto e quindi bene anche la sensibilizzazione verso gli utenti deboli. Dopodiché gli interventi prioritari e anche la priorità di dibattito, di discussione, di confronto, di individuazione di misure urgenti per ridurre gli incidenti, credo si debba concentrare sulle cause principali degli incidenti stessi. Sembra un po' tautologico dirlo, ma sembra che serva, purtroppo. Nel mandato precedente tu, insomma, eri assessore, hai cercato anche di fare misure in questa direzione. Quali sono le misure per ridurre, appunto, anche quelle che sono poi le tragedie? Ma sicuramente ci vuole un mix di misure preventive e repressive, quindi ad esempio rispetto a questa campagna del risveglio civico sono positivi i risultati che sono arrivati ieri, che parlano di un netto aumento delle multe per guida di auto e camion con il cellulare in mano. Penso che alla luce del triplicarsi di pedoni investiti e uccisi sulle strisce pedonali in questo inizio d'anno, bisognerebbe che i controlli adesso si concentrassero anche proprio sul rispetto del rallentare, dare la precedenza sulle strisce pedonali. E poi interventi infrastrutturali, ci vogliono semafori pedonali a chiamata, isole salvagenti, piste ciclabili protette, tutti i progetti che abbiamo provato a portare avanti anche qualche volta a costo di essere impopolari negli scorsi anni e che oggi io credo sia necessario riprendano e trovino continuità, perché alla fine ne va della salute e dell'incolumità dei nostri cittadini, che dovrebbe venire prima di ogni tornaconto o convenienza politica. Spesso si è parlato, no, della contrapposizione che c'è tra i vari utenti della strada. Trovi che ci sia una possibilità a Bologna per, come dire, non far essere ad esempio ciclisti, pedoni e automobilisti nemici fra loro? Beh, credo che da questo punto di vista molta responsabilità sia anche della politica, che non deve alimentare un dibattito per categorie, perché ciascuno di noi nella sua vita quotidiana è sempre pedone in un qualche momento e poi a seconda delle scelte, delle possibilità, può essere ciclista, scooterista, automobilista e così via. Io penso che i messaggi che un'amministrazione manda sono fondamentali. Ecco, questo far passare l'idea che tutto il problema della sicurezza stradale alla fine di pedoni distratti e ciclisti selvaggi, oltre che essere riduttivo e in contrasto con i numeri oggettivi, crea un po' una ulteriore divisione e conflittualità tra le persone che non è da alimentare, insomma.